Alla mattina ti voglio bene, al pomeriggio ti voglio bene, alla sera quando non dormo ti voglio bene. Che io sia a casa ti voglio bene, o che sia al lavoro ti voglio bene, in ogni luogo, in ogni istante ti voglio bene. Ed è per questo che ti canto una canzone che non è niente di diverso, non è niente, ma per me solo tu nell'universo puoi capire veramente ciò che penso. E ciò che penso io lo provo, io lo vivo, io te lo scrivo. Ti voglio bene e se non l'hai capito, ti voglio bene, te lo ripeto all'infinito. Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. O forse è meglio, voglio il tuo bene, ancor più bello, voglio il tuo bene, che in ogni giorno al mio risveglio voglio il tuo bene. Ed è per questo che ti canto una canzone che non è niente di diverso, non è niente, ma per me solo tu nell'universo puoi capire veramente ciò che penso. Ciò che penso, io lo provo, io lo vivo, io te lo scrivo. Canto una canzone che non è niente di diverso, non è niente, ma per me solo tu nell'universo puoi capire veramente ciò che penso. E anche se adesso io lo so che un po' di me ti mancherà, nell'universo la canzone suonerà e la mia voce sì, per sempre poi ancora ti dirà ti voglio bene.